Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Una notte con i migranti, il nostro viaggio nel buio di Trieste tra i quasi invisibili di Piazza della Libertà. Edilizia, fra 10 giorni sarà obbligatoria la patente a crediti, 15.000 imprese alle prese con la burocrazia. Gronda Nord di Pordenone, presto l'affidamento della progettazione del primo lotto da Fontana Fredda alla Comina. Alzheimer, nella sfida alla gestione della demenza, la riduzione di contenimento e farmaci, convegno a Cividale. A Pordenone legge l'umorismo surreale di Bergonzoni per i detenuti Chiara Valerio e il nuovo Sherlock Holmes. Un patrimonio di biodiversità e memoria lungo l'ex cortina di ferro a Lusevera, il punto su 2 anni di lavoro. 12:31, buongiorno da Francesca Terranova e Rita Micoli. Apriamo anche questa edizione del giornale radio con i temi che riguardano i migranti, quelli che si fermano a Trieste, spesso di passaggio prima di continuare il loro viaggio. Li abbiamo incontrati questa notte, sentiamo. L'imperatrice Elisabetta, ingabbiata da tempo dentro transenne di protezione, sembra osservare silenziosa il viavai di vite umane che transitano nella sua piazza. Ore 19, c'è chi è appena arrivato a Trieste dalla frontiera. Una trentina circa di persone, pakistani, afghani, siriani. 2 donne curde con i piedi lacerati trovano mani solidali e sguardi gentili di altre donne italiane che prestano assistenza. Sono arrivate sole ma stanno aspettando il resto della famiglia, tra cui 7 bambini. Il loro viaggio proseguirà poche ore dopo con il treno delle 4:26 per Venezia, poi Milano, Svizzera. Nel frattempo troveranno un posto per la notte al dormitorio di Sant'Anastasio, aperto dal vescovo. Gli uomini invece vedremo poi trovare riparo tra i magazzini di Porto Vecchio, vogliono chiedere asilo qui a Trieste. Torniamo alla piazza, le mani gentili che donano cibo e vestiti. Arriviamo da Vicenza, racconta una donna, 2 ore e mezza andare, 2 tornare. Ma vogliamo dare una mano, lo facciamo circa 3 volte al mese. Doniamo cibo e vestiti. Chi viene da fuori regione c'è, ma soprattutto ci sono i triestini, che vengono ogni notte, sono soprattutto donne, operose, al servizio degli altri. Ho figli dell'età di questi ragazzi, se dovessero trovarsi in questa situazione vorrei che qualcuno desse loro una mano, racconta una donna. Ore 22, la distribuzione del cibo è finita, chi ha un posto nell'accoglienza lascia la piazza, gli altri restano, ci mostrano la richiesta d'asilo già registrata in questura, quindi sono richiedenti asilo che per legge avrebbero diritto all'accoglienza, ma le strutture sono sature. Ore 23, contiamo almeno 160 persone che dormono tra Piazza Libertà e altri anfratti riparati del Porto Vecchio, diventati dormitori temporanei dopo la chiusura 3 mesi fa del Silos. A mezzanotte altri arrivi, 2 donne siriane velate, sono giovani, non parlano inglese, ci sono 3 minori con loro, 12, 14, 15 anni, sono pakistani, non sono familiari, viaggiano soli, si aggregano al tragitto. Anche loro puntano al primo treno per Venezia. Il nostro viaggio notturno finisce attorno all'1 di notte quando arrivano altre ragazze italiane a portare il tè caldo. Fanno parte di un'associazione, una ragazza è belga ed è responsabile in Belgio di un centro per immigrati. Le persone qui aspettano anche settimane, dice, in strada, per avere un posto dove dormire. In Belgio succede al massimo per 2 notti. Abbiamo aperto dormitori, creato convenzioni. Se una persona ha il diritto d'asilo e gli viene concesso, non è possibile che dorma qui. Non è corretto. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Cambiamo argomento. Fra 10 giorni scatta l'obbligo di dotarsi della patente a crediti per le imprese edili e per gli artigiani senza dipendenti che operano nei cantieri temporanei. La patente funziona un po' come quella per l'automobile. Si parte da una base iniziale di 30 punti e vengono decurtati in caso di incidenti, infortuni o violazioni delle norme di sicurezza. La CGA di Mestre, associazioni di artigiani e piccole imprese, fa notare però che mancano ancora la circolare esplicativa dell'Ispettorato del Lavoro e il portale online dove presentare le domande per ottenere la patente. Le oltre 15.000 imprese del comparto casa in Friuli Venezia Giulia si stanno scontrando dunque in questi giorni con le difficoltà date dalla burocrazia. Nelle intenzioni il provvedimento vuole contrastare il lavoro irregolare e aumentare la sicurezza nel comparto costruzioni, dove negli ultimi 9 mesi 10 persone sono morte sul lavoro solo in Friuli Venezia Giulia. Ma di fatto la paura degli artigiani edilia di non riuscire a mettersi in regola per tempo. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato solo ieri infatti il decreto attuativo della norma e la ministra Calderone ha già scartato l'ipotesi di una proroga del termine. La CGA auspica però che almeno fino alla fine di quest'anno sia prevista una fase di accompagnamento per scongiurare la decurtazione dei crediti dalla patente, fatta eccezione per gli infortuni mortali o gravi che dovessero verificarsi. Per fermare le morti, suggerisce la CGA di Mestre, più che la patente a crediti, bisognerebbe aumentare i controlli diretti nei cantieri. L'approvazione dello studio di fattibilità della Gronda Nord di Pordenone consente di procedere con l'affidamento della progettazione del primo lotto, già coperto da stanziamento di 30 milioni di euro. Lo fa sapere l'assessore regionale alle infrastrutture e al territorio, Cristina Mirante, dopo l'approvazione in giunta dello studio di fattibilità delle alternative progettuali. Il primo tratto della Gronda Nord è quello da Fontana Fredda all'area della Comina di Pordenone. Il progetto complessivo prevede poi il proseguimento fino a Zoppola con il collegamento alla Cimpello Sequals per creare una viabilità alternativa alla statale Pontebana, ormai satura e immersa nei centri abitati. E sempre la Giunta regionale ha approvato il bando di prossima pubblicazione per la concessione a favore degli enti locali di anticipazioni finanziarie per la copertura delle spese di progettazione delle opere pubbliche nella misura massima dell'80% della spesa. Ammissibili a finanziamento sono le spese per la redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivi, per indagini, ricerche e studi propedeutici, per l'incarico di verifica progettuale. Escluse invece le spese e gli incarichi connessi alle fasi di programmazione, di esecuzione e collaudo dei lavori. Domande entro il 15 novembre. L'assessora all'istruzione Alessia Rosolena ha annunciato l'uscita dell'avviso bonus psicologo studenti Friuli Venezia Giulia, che garantisce agli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai corsi IFP di poter accedere al contributo anche per l'anno scolastico in corso. Le famiglie possono richiedere il contributo all'ARDIS fino al prossimo 14 novembre. 1,5 milioni di euro le risorse stanziate per il triennio 2024-26. Il bonus si applica ad un ciclo di 5 sedute individuali e ammonta a 225 euro. Copre il 90% del costo complessivo degli incontri. Resta a carico della famiglia la quota del 10%, pari a 25 euro totali. Elemento di novità è la concessione di un unico contributo per anno solare per un massimo di 2 volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione. Gli psicologi accreditati per il 2024 in regione sono 513, i comuni coperti 68. E oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia che insieme alle forme di demenza colpisce in Friuli Venezia Giulia un ultra 65enne su 10 e che si ripercuote pesantemente con alti costi sociali sulle famiglie e sui cosiddetti caregiver. Tante le iniziative oggi in tutta la regione. Siamo andati a Cividale, dove al Centro Congressi San Francesco si tiene un convegno per fare il punto su un possibile approccio diverso all'assistenza dei pazienti, già in via di sperimentazione proprio nell'ASP cividalese Casa per Anziani. Si è cominciato con un primo nucleo di pazienti, 8 su 16 erano contenuti a letto, poi con gradualità si è avviato un percorso di alleggerimento, prima abbassando una spondina, poi due, riducendo il ricorso ai farmaci, studiando e analizzando la storia e soprattutto le sensazioni del paziente. È l'approccio della Casa per Anziani di Cividale nei confronti delle persone con Alzheimer, una novità che è stata illustrata in un convegno Cividale con lo scopo di condividere esperienze e pratiche. L'idea alla base, spiega la direttrice del centro, dottoressa Nicoletta Tofani, è che la L'agitazione nelle persone con Alzheimer nasce da un disagio che non riescono a esprimere e che molto spesso è provocato dall'ambiente esterno. Per questo in ogni situazione anomala si va a studiare cosa è accaduto prima e attorno al paziente per capire quale possa essere la causa scatenante e intervenire di conseguenza. Un ciclo di osservazione dedicato che permette di ridurre il ricorso al contenimento fisico e farmacologico. Un approccio nuovo che andrebbe fatto corrispondere un cambiamento anche nella società, dove è ancora forte lo stigma nei confronti delle persone con demenza, viste come persone senza futuro per cui si può solo provare pietà o in certi casi rabbia, dimenticando che provano e sentono emozioni. Non solo, in regione sono circa 30.000 secondo le stime le persone affette, un numero che aumenterà con il passare degli anni. Per prepararsi servono interventi sul territorio creando nuclei per ospitare le persone con demenza e insistendo sulla formazione per le famiglie che si trovano spesso nella condizione di dover assistere familiari con Alzheimer senza gli strumenti adatti. Cividale, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tanti incontri in calendario oggi a Pordenone Legge, da Domenico Procacci ad Adriano Panatta, per raccontare libro e serie TV sull'Italia della Coppa Davis del 76. Poi c'è la scrittrice iraniana Zarna Fisi, la cronista ucraina Sasha Vasilicu e poi il neuroscienziato Manfred Spitzer sull'intelligenza artificiale e Mario Calabresi con il suo Il Tempo del Bosco. Ma sentiamo un resoconto degli appuntamenti che abbiamo seguito per voi in queste ultime ore. A portare ai detenuti del carcere di Pordenone un sorriso ieri in un evento chiuso al pubblico ma dalla grande valenza sociale è stato l'umorismo surreale dell'attore Alessandro Bergonzoni. Ho portato per la prima volta i vestiti, rivolta, la rivolta è questa. Ho chiesto, siccome ho i pantaloni rivoltati, la camicia rivoltata e lo spolverino rivoltato, per fare una rivolta di quelli che sono fuori. Io chiedo ai cittadini che hanno tutte le carceri nelle città di mettersi fuori per fare questa rivolta, rivoltare il vestito per far capire cosa c'è dentro, cosa non si vede e capire cosa c'è dentro là. Un romanzo nero venato da sottile ironia, quello di Chiara Valerio, Chi dice e chi tace, metafora del detto e del non detto di una società, la nostra, bulimica di opinioni. La questione è che siamo tutti obbligati e ci siamo auto-obbligati a dare una versione o una nostra opinione o una nostra dichiarazione su qualsiasi cosa. Se io insegnassi ancora a scuola farei fare questo esercizio, riflettere per intervenire, resistere all'intervento. Torna tra noi Sherlock Holmes in un'indagine che lo porterà paradossalmente al fianco del nemico di sempre, il dottor Moriarty. A raccontarlo l'inglese Gareth Rubin in un romanzo, Sinister, il primo autorizzato dagli eredi di Conan Doyle, sull'investigatore più famoso al mondo. Well, it's an astonishing. È stata un'esperienza fantastica. Ridare vita a Sherlock Holmes e a Sir Arthur Conan Doyle mi ha fatto tanto piacere, perché ovviamente parliamo di personaggi che tutti portano nel cuore e che tutti hanno così amato. Quindi sicuramente una grande sfida, davvero difficile, però una sfida eccezionale a cui non rinuncerei mai. Dobbiamo aspettarci dei sequel o questo è l'ultimo libro, l'ultima avventura di Sherlock Holmes? Sherlock Holmes always comes back. Sherlock Holmes torna sempre. Molti hanno tentato di ucciderlo, nessuno ci è ancora riuscito, non sarò certo io quello che lo vuole fare. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Fondazione Il Campiello assegna oggi il premio speciale alla carriera al triestino Paolo Rumiz. Il riconoscimento sarà consegnato in occasione della finale della 62esima edizione del Campiello questa sera al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Rumiz è stato, a partire dal suo nord-est, cittadino di tante culture e di tanti paesaggi. I suoi racconti hanno attraversato frontiere e abbattuto muri, le parole del presidente della giuria dei letterati Walter Veltroni. I segreti del Timavo, svelati questa mattina a Trieste dalla Società Adriatica di Speleologia, che ha condotto le recenti esplorazioni della grotta Luftloch, con i risultati anche della spedizione subacquea italo-francese Timavo System Exploration. Nel buio più totale del sottosuolo carsico si celano intrecci di dedali impenetrabili, gallerie e laghi che non hanno mai visto la luce. Protagonista di questo enigmatico scorrere è il Timavo, che ha svelato nuovi segreti. Il suo percorso sotterraneo ipotizzato si snoda su più di 50 chilometri, dalle grotte di San Canziano in Slovenia alle sue foci a San Giovanni di Duino. Fino ad oggi sono stati esplorati 11 chilometri. Punto d'accesso per le nuove esplorazioni la grotta Luftloch tra Trebicciano e Fernetti. Il suo fondo, dove scorre l'enigmatico fiume, è stato raggiunto a marzo di quest'anno dagli speleologi della Società Adriatica di Speleologia. L'esplorazione è proseguita in agosto, rivelando centinaia di metri inesplorati, con l'obiettivo di dimostrare un collegamento tra vari sistemi di grotte. Marco Restaino, presidente Società Adriatica di Speleologia. La grotta di Trebicciano quest'anno ha dato 300 metri di nuove gallerie, quindi l'abisso di Trebicciano adesso raggiunge il chilometro e mezzo di sviluppo di lunghezza, quindi si riesce a seguire il fiume per un chilometro e mezzo. Ma non solo, nella grotta Luftloch le ultime esplorazioni hanno dato che si può riuscire a seguire il fiume per addirittura quasi 300 metri, quindi vediamo come di anno in anno la mappatura diventa sempre più completa. Quanto mancherebbe per collegare i due sistemi? In realtà poco, i dati ci dicono sui 200 metri, sotto acqua a meno 300 metri, a 300 metri di profondità non è poco, però rispetto a tutto quello che è stato fatto ormai diventa una porzione abbastanza piccolina. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E lungo la ex cortina di ferro che ha separato il continente europeo tra Oriente e Occidente per quasi 40 anni si è sviluppata una sorprendente rete ecologica e si è conservato un paesaggio della memoria di grande valore. Nei suoi 12.500 chilometri c'è anche il Friuli Venezia Giulia, dal Tarvisiano fino a Muggia lungo il confine con la Slovenia. Questa mattina a Lusevera, rifugio Pian dei Ciclamini, l'associazione Rete Italiana European Green Belt con la Presidente Francesca Visintina ha fatto il punto di 2 anni di lavoro finanziati dal bando Best Belt con fondi della Commissione europea. Oggi chiudiamo questi 2 anni di progetto, nel corso dei quali abbiamo lavorato su 3 interventi principali che avevano come obiettivo la conservazione della biodiversità in questo territorio di confine lungo la European Green Belt. La conservazione delle zone umide, delle pozze, da un lato per la tutela degli anfibi, dall'altro la conservazione dei prati attraverso attività di pascolamento che ci consentono di preservare l'elevata biodiversità dei prati e da ultimo l'intervento sui bunker, un intervento sicuramente dall'elevato valore sia dal punto di vista storico ma anche naturalistico, perché i bunker nel tempo sono diventati delle sorte di grotte artificiali nelle quali si riparano e si rifugiano i chirotteri, ovvero i pipistrelli, che sono tra le specie più minacciate e che quindi abbisognano di conservazione. Dunque la guerra fredda si può dire che abbia protetto per decenni lungo una cerniera di migliaia e migliaia di chilometri attraverso l'Europa un grande patrimonio di biodiversità. Cosa si può fare qui in Friuli Venezia Giulia? La prima attività che bisogna fare è conservare un patrimonio valorizzato in che termini? In termini di attività didattiche educative e di valorizzazioni che siano sostenibili, inclusa anche quella turistica. Abbiamo quindi anche realizzato un percorso virtuale che ci accompagna lungo i punti, i luoghi dove noi abbiamo effettuato le attività di conservazione della biodiversità, ma entrando in questi territori in punta di piedi. E la rassegna WARS, acronimo di Where Are Real Stories, luoghi, vicende e arti per conoscere la storia del Novecento, inaugurata a giugno, ha in programma da oggi 7 appuntamenti autunnali fra Udine e Mortegliano. Oggi alle 20 a Santa Maria di Lestizza, area Festintenda, verrà presentato il videoclip Padua di DJ Tubet per la regia di Stefano Morandini, ambientato in un bunker della Guerra Fredda gestito dall'Associazione per lo Studio e la Salvaguardia delle Fortificazioni a nord-est e recupera anche alcune citazioni di villotte friulane. Ci sarà un'anteprima del trailer del mediometraggio Gorinsky Zid, il muro di Gorizia di Etem Production. E al centro sociale di Coia di Tarcento, per il 90° della formazione del gruppo ANA, Luca Cosa e Paolo Moro parleranno di strutture militari nelle valli del Torre in collaborazione con l'Associazione Speleologica di Tarcento alle 20.45. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste abbiamo 22,5 gradi, il mare è mosso con temperatura di 21. Udine, Gorizia e Pordenone 24, a Tolmezzo 19,5 gradi, a Forni di Sopra 17, Tarvisio 16, Piancavallo 14 gradi, Sappada 13,5, Monte Zoncolan 8 gradi, Sull'Ussari 7, a Grado e Lignano 23,5. Le previsioni a cura dell'ARPA: per il pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso, sulla zona montana possibile cielo variabile, specie nel Tarvisiano e sulle prealpi carniche, sulla costa al mattino bora moderata, in calo nel pomeriggio. Domani cielo sereno poco nuvoloso per la probabile presenza di velatura ad alta quota, 20 a regime di brezza. L'inno alla gioia di Beethoven che stiamo ascoltando è interpretato dall'Orchestra Sinfonica Esagramma, il primo ensemble inclusivo d'Europa dove i musicisti professionisti sono affiancati da giovani con disagio psichico. Esagramma è il pentagramma con una riga metaforica in più, quella che serve per rendere accessibile a tutti anche le partiture più complesse, un'opportunità che non è presente nella nostra regione. Questa sera l'orchestra si esibisce nella Basilica di Aquileia alle 20.45. Durante il concerto ogni brano sarà tradotto in immagine dall'artista della sabbia Erika Belardo Eca a favore dei non udenti. La parte cantata, eseguita dal tenore Francesco Cortese e dal soprano Silvia Bonesso, sarà interpretata con il linguaggio dei segni da Mauro Iandolo. L'orchestra Esagramma proporrà un programma che spazia da Monteverdi a Beethoven, da Bizet a Puccini, per arrivare a Ennio Morricone. Sentiamo la nostra intervista al maestro Gabriele Rubino. Siamo un centro milanese che opera da più di 40 anni, dando vita a percorsi musicali e artistici inclusivi, in particolare all'interno dell'orchestra. In 40 anni di attività è stata messa a punto una metodologia che permette un accesso facilitato appunto agli strumenti dell'orchestra e in generale alla pratica orchestrale, al fare musica in un'orchestra. Dal punto di vista del pubblico che vi ascolta, un pubblico magari non necessariamente di addetti ai lavori, si percepisce una qualche differenza rispetto a un'orchestra, diciamo, standard? Chi assiste al nostro concerto assiste anche a questo e lo fa ascoltando dei brani che solitamente le altre orchestre eseguono nelle loro versioni originali, quindi con mezzi molto sofisticati. Noi prendiamo questi brani e li smontiamo, li analizziamo all'osso per coglierne la loro essenza e la forniamo al pubblico nella nostra versione, che probabilmente in una forma ridotta, più breve, però non perde le sue caratteristiche. Dirigere un'orchestra così o dirigere un'orchestra tradizionale, che differenza fa? Dove si diverte di più? Questo è un lavoro molto divertente, sicuramente, ma che oltre a questo mi ha dato la possibilità di affrontare la musica proprio da questo punto di vista, di considerare l'orchestra come un gruppo di persone che si ascoltano, che si aspettano. Purtroppo nessuno ancora in Friuli Venezia Giulia, ma chissà se è l'occasione di far conoscere anche questa realtà. Ma se crudiso, se crudiso, se crudiso, ma se crudiso deriva a non fa bevi un po' più che alba se tutto sul tai di vi. Esce oggi il terzo vinile in friulano dei Lapnessless, gruppo folk della Bassa Friulana, si intitola Putridambur ed è un concept album stampato in vinile che racchiude 10 tracce senza soluzione di continuità sonora. È un viaggio dal passato al futuro, da un tempo sereno che ancora ricordiamo ad un mondo ormai devastato dalle guerre nucleari e reso sterile da un'umanità senza scrupoli che prega una divinità affinché germogli l'ultimo albero rimasto sul pianeta, appunto il Putridambur. Quello che abbiamo ascoltato era il loro brano Life Divine dal primo album uscito nel 2016, Besties Forestis. Alcuni appuntamenti nel rifugio di Piande e Ciclamini di Lusevera. Gli autori delle guide di montagna, Davide Barducci, Angelo Sinuello e Marco Pascolino, presenteranno dalle 20:30 la trilogia edita da Odos, Alpi e Prealpi Giulie, Alpi Carniche, Dolomiti Friulane e Prealpi Carniche. Per l'energia dei luoghi, Festival del Vento e della Pietra, inaugurazione alle 18:30 alla Porto Piccolo Art Gallery di Sistiana dello scultore Eddie Carrer, Antai. Inaugurazione della mostra Florilège della pittrice Serena Vivoda a Trieste, Galleria Rettori Tribi alle 18. Prenderanno avvio alle 14 a Clauzetto, a Palazzo Gerometta, i laboratori della memoria. Per 5 sabati consecutivi i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi, seguiti da insegnanti, nell'apprendimento di antiche abilità manuali, l'intaglio del legno, la realizzazione dei tipici scarpez, il mosaico, le tecniche di intreccio. Complessivamente 15 ore con partecipazione a titolo gratuito. L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto 2024 anno delle radici italiane, cui il Comune ha aderito con l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo sport, il calcio, in Serie C oggi la Triestina gioca sul campo dell'Eco alle 18:30, Unione alla ricerca di un risultato utile dopo 3 sconfitte consecutive con la panchina di Michele Santoni in bilico. Basket, appuntamento in rosa a concludere il programma delle gare della 22esima Basketball Summer League. Alle 20 la palestra Stella Matutina di Gorizia ospiterà il match fra le principali formazioni di riferimento della pallacanestro femminile in regione, LBS Women Apu Delser Udine e Futurosa Forna Basket Trieste. Le rubriche della TGR, domani torna sulle frequenze di Radio 1 la versione radiofonica di Est Ovest alle 6:05, alle 8:50 invece Vita nei Campi, la trasmissione della nostra redazione dedicata ad agricoltura, territorio, ambiente e enogastronomia. Un'anticipazione. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un primo bilancio sulla stagione delle mele in regione. A seguire per la rubrica su agricoltura e cibo nella storia, le verdure che si coltivavano nelle tenute di Carlo Magno. Come preservare il terreno e il suolo agricolo di fronte ai cambiamenti climatici? La storia del settore primario raccontata dalle piante che lo hanno caratterizzato. E ancora la fermentazione del pigiato e la gestione della vinificazione a caldo, il bosco, le sue valenze paesaggistiche di biodiversità e in conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TG. Friuli Venezia Giulia. E ricordiamo che la prossima settimana riprende anche l'appuntamento televisivo con Buongiorno Italia e Buongiorno Regione su Rai 3. Ben ritrovati a Buongiorno Italia. Dalla prossima settimana tornano su Rai 3 le morning news della testata giornalistica regionale. Dalle 7 alle 8, Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. Con Buongiorno Italia le ultime notizie della notte, una completa rassegna stampa nazionale e locale, i fatti di cronaca più rilevanti, lo sport e l'ambiente e i collegamenti con le redazioni regionali. Con Buongiorno Regione dalle 7:30 l'informazione locale, le dirette dal territorio, i servizi di pubblica utilità, le buone notizie, le inchieste e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, dalla prossima settimana dalle 7 su Rai 3. Un'informazione che riguarda la viabilità maxi cantiere in A4 questa sera tra gli svincoli di Latisana e San Donà per abbattere il primo di 10 cavalcavia nel tratto San Donà-Portogruaro per la realizzazione della terza corsia. Tra le 20 di questa sera e le 8 di domani verrà chiusa la carreggiata in direzione Trieste tra gli svincoli di San Donà e il nodo di Portogruaro. Chiuso fino a mezzogiorno di domani il tratto della 4 in direzione Venezia, compreso tra gli svincoli di Latisana e Cessalto. Alla parte tecnica Giuliano Pecorari, Samuel Montalto, Ugo Nicoletti. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Francesca Terranova e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.